Blog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Svolta radicale per Playboy. Da marzo 2016, infatti, la rivista smetterà di pubblicare foto di nudi femminili integrali, perché ai tempi di internet il facile accesso a simili immagini le rese ormai sorpassate. Il magazine, famoso per le sue conigliette, che l'anno prossimo festeggerà il suo 63° compleanno, intende diventare più accessibile. E secondo il nuovo direttore Cory Jones, allontanarsi dai nudi integrali è la strada giusta per farlo. Belle donne e pose provocanti ovviamente resteranno e saranno accompagnate da interviste e ricchi articoli, con la speranza di rendere la lettura meno scontata e forse ancora più intrigante. Che notiziona, l'ha detto al New York Times Scott Flanders, l'amministratore delegato di Playboy, poi si chiama Flanders, come il vicino supercattolico di Homer Simpson, che mai oserebbe soltanto alzare gli occhi su una donna nuda, è un paradosso. Beh, ha detto il signor Flanders che dall'anno prossimo non ci saranno più le donne nude su Playboy. Il paradosso è il motivo per cui non ci sono più donne nude, probabilmente che nessuno più usa Playboy per avere un supporto cartaceo per attività autoerotica, usano naturalmente cose molto più vivide e vivaci, quindi lo smartphone collegato con YouPorn. Ma il problema però nel rapporto tra Playboy e la rete è che Playboy è stato uno dei primi siti, a metà degli anni 90 erano 3 o 4 i siti che si andavano a visitare, il Louvre e il sito di Playboy, e c'erano le donnine scollacciate. Oggi Playboy non può condividere le proprie foto sui social network perché sono talmente beghini Facebook, Twitter e via dicendo che se si vede il seno nudo bannano la foto e chiudono il profilo. Quindi è un paradosso. In internet girano accoppiamenti con mandri di bufali e nessuno può dire niente, però nei social network, che è lo strumento di diffusione dell'immagine, Playboy non può apparire, quindi Playboy chiude. Beh, quanti di voi brinderanno come a un funerale, quanti getteranno la lacrimuccia, quanti ricorderanno le preziose diottrie consumate sfogliando con la rivista patinata? Quanta ipocrisia attorno a Playboy, chiude una rivista patinata. Ma vi immaginate Playboy senza donne nude? A che serve? Chi se lo compra? Non c'ha senso. Non ha senso nemmeno con le donne nude, ma forse c'è qualche vecchietto, qualche pensionato, qualche barbiere di paese che è nascosto sotto, bene, sotto gli asciugamani, sotto la fila rasoi, sotto la sugna di anni e anni e anni di sgrassamento di pettini, qualche Playboy spiegazzato, perché l'androceo una volta era quello in cui si sfogliavano con le riviste, gli uomini andavano lì, si rifacevano gli occhi, poi tornavano a casa e nella penombra si facevano la moglie. 800 24 00 24, piangerete per la perdita delle donne nude su Playboy? A tra poco. Melog, cronache meridiane. Vorrei sapere chi gli frega che Playboy non c'ha le donne nude. Io non sapevo fosse ancora in edicola. Io pensavo che non ci fosse più. Infatti. No, qui ci sono delle bancarelle, qui vicino alla stazione, lo faccio uscendo la metro, che vendono tutti i giornali zozzi degli anni 70, 80 e 90. C'erano dei vecchietti, poveretti, che ne so, per 2 euro gli danno una pila di giornali ancora incollati da anni di frequentazione. Ah, certo, perché loro hanno il mercato di quelli che non sanno manovrare gli smartphone, sì. Infatti c'è una cosa VHS, la cosa più avanzata sono i VHS con le cassette porno. E vanno sti vecchietti. Tu hai già scritto un pezzo su questo? Sì, sul Fatto. E cosa hai detto? Che già la processione della Settimana Santa è molto più erotica. Più zozza, perché? È più erotica, perché c'è il potere, proprio il sacro. Cioè, anche le donne. Vicenda, no. Madonna, sì, la Maddalena, la Madonna è bella. Sai, questa vicenda è la conferma di un fatto: il pudore custodisce l'erotismo. Cioè, perché io sì, ipocrisia, Playboy è carta da sega e non è altro, diciamo. Sì, cioè, quella sì. Vabbè, però allora fine, però come dice Staiti, che era un grande Playboy, lui cosa diceva? Lui diceva questo: ringrazio Dio di essere vissuto in provincia e in un paese cattolico come l'Italia, perché ogni centimetro. Lo so, ma è fortunato. Tu pensa a un vecchietto che sta in una periferia di Roma, poveretto. Il vecchietto deve fare il vecchietto. Cominciata la trasmissione, cominciata. Ladies and gentlemen, direttamente dalla Playboy Mansion del papà delle conigliette Hugh Hefner, la playmate dell'anno, Jade Nicole. 22enne canadese, la splendida modella si è aggiudicata l'ambito titolo e paginone centrale della rivista più hot d'oltreoceano. Nonostante l'arzillo pigmalione preferisca le bionde, è stata questa esplosiva brunetta a prevalere su colleghe dalle chiome color grano. Le sue gambe lunghe e il suo viso fanciullesco su un corpo dalle curve mozzafiato hanno fatto la differenza. Jade Nicole si è detta felicissima per il titolo ricevuto. È un onore per lei essere la playmate dell'anno, visto che da quando aveva 16 anni mi dice la mia apparato tecnico c'è stato un fuori onda. Scusate, è un problema che ormai mi trascino da mesi. So che Giovanni Minoli infatti protesta perché ha un copyright sull'uso e l'abuso di buttafuoco, ma gli trovasse anche un ufficio, perché è qua piantato, si è portato anche il sacco a pelo, quindi passa qui anche le notti. A me fa piacere perché è un amico, è simpatico, però chiacchiero nelle pause quando sento storia dell'Europa, sento la pubblicità che fa dalla smart nelle orecchie, qualche maniera dovrò occupare il tempo e parlo con buttafuoco. Invece, mentre voi chiamerete all'800240024 e mi parlerete questa mattina di quelli che erano i supporti cartacei, l'immaginario autoerotico dei maschi, perché di quello si tratta, a meno che qualcuno mi contraddica, tipo Susanna Schimperna, buongiorno. Buongiorno, ciao Gianluca. Giornalista, scrittrice, autrice di Eterna Adolescenti, caro editore, il libro di cui abbiamo parlato qualche puntata fa, per oggi ti convoco su un argomento che tu conosci bene. Tu sei stata editrice di un giornale raffinatissimo, patinatissimo, in cui c'erano anche immagini erotiche. Sì, sì, direttore blu, che veramente di nudi ne aveva pochissime. Beh, era di fumetti, giornale... più che altro era di fumetti. Sì, era più che altro di fumetti, quando aveva delle immagini, delle fotografie. Erano... La pretesa era di essere un giornale erotico, questa è la verità. Non pornografico, ma non nel senso che la pornografia è un erotismo esagerato, l'erotismo è una pornografia che ha qualcosa di meno. Questa è un'ipocrisia. Questa è un'ipocrisia assoluta. No, nel senso di privilegiare la parte creativa dell'autore. Quindi, per te è una cosa erotica? Anche la più strana, la più bizzarra, sei un bravo autore, io ti pubblico. E quindi veniva fuori un marasma di cose più o meno belle, più o meno brutte, a volte terrificanti, a volte fantasticamente eccitanti, perché poi l'erotismo, eros, immaginazione. Senti, fantasia. Tu invece come la vedi questa notizia che circola oggi di Playboy? Per me è una maniera per fare un funerale uscendone bene, allora, ne esce in gloria. Tu hai detto che ero l'editrice, ero la direttrice. Scusa, direttrice, beri tutto. No, dunque è importante una cosa, è importante pensare che un direttore comunque, quanto l'editore, deve star dietro alle vendite, perché altrimenti il giornale chiude o il direttore viene cacciato via. Quindi il lato commerciale della questione ovviamente mi interessa molto. E Playboy è sceso 800.000 copie, ne vendeva quasi 6 milioni un po' di anni fa. Ma non c'era internet. Appunto, sì, ma qui senza trovare varie motivazioni, il discorso è che questi devono risalire, se no non ha senso. 800.000 copie in Italia, beh, non le vende nessuno, però capisci che per Playboy, che ha un marchio anche in tutto il mondo, la cosa è molto diversa. Ma come risalgono se tolgono le donne nude? Allora, questo infatti è molto interessante e c'è molto da discutere, perché è vero che quel nudo non tira più, nel senso anche, che brutta battuta, ma nel senso anche letterale, ma può anche essere, capito? Però così è, no, è uno così, si abitua è, a e anzi guarda, no, ti vorrei aggiungere che non era solo Playboy, perché io una volta, sono abbastanza vecchia da ricordarmi, giornali come Panorama ed Espresso, che in parte, non so in che percentuale, ma sicuramente vendevano anche, questo era riconosciuto dagli stessi direttori, perché a un certo punto trovavi la ragazza mezza spogliata. Ma c'è ancora Panorama nell'ultima pagina, c'è la però, no, però voglio dire, non vende, piccolina, non vende la ragazzina, certo, con le tette di fuori, ma c'è, ma non vende certo per questo, magari c'è qualche pensionato, una volta sfoglia Panorama e cerca, e c'era quello. Anche il Borghese, il giornale della destra, ma quello era fantastico, scusa, il Borghese aveva queste foto nell'interno, c'erano queste foto grandi a tutta pagina, mai, per carità, neanche un seno completamente era tutto scoperto, in bianco e nero, però quelle del Borghese era in bianco e nero ed era ritenuto eccitantissimo e super trasgressivo. Il mio nonno, che aveva la collezione del Borghese, ne ha chiuse a chiave in un armadio, che noi nipotini non andassero a vedere le donne nude del Borghese. Lo capisco, il nonno era proprio un'altra. C'è questo equivoco poi del nudo artistico che è stato tirato fuori da Playboy, no? Cioè, allora artistico, che vogliamo dire? Che è così bello, così statuario, così perfetto e così mobile soprattutto, perché l'eros è sicuramente movimento. Così sì, però come allora ci stiamo girando intorno, Susanna. Il Borghese mette le donne nude all'interno per la stessa ragione in cui Playboy aveva successo, certo, perché i maschi hanno bisogno di vedere una donna nuda per avere un supporto, sì, onirico quando si masturbano, fine, non è che non arriva, finché non è arrivato altro. Nel momento in cui arriva Penthouse, che presenta un nudo integrale, perché Playboy non aveva nudi integrali fino a quel punto, erano vietati i nudi integrali. Sì, si vedono solo le tette, vero? Ecco, dopodiché, dopo il nudo integrale, dove si arriva? Si arriva al movimento, quindi si arriva a YouPorn, si arriva a vedere altro, a vedere la donna che si muove, la coppia che si muove, gli accoppiamenti. Beh, nel frattempo in mezzo sono stati i giornali più espliciti, i primi giornali con vera pornografia che si vede. C'erano una serie di attrici, non dico i nomi perché è un atto, sarebbe un atto vigliacco, ma di personaggi, soubrette famose, che a un certo punto facevano la grande uscita. Sì. Ecco, dico una per tutte, Minnie Minopr, che apparve Minnie Minopr, che poi loro non facevano nulla, anche Luciana Turina, pensa. No, però erano lì davanti. Sì, c'erano 70 uomini con la sciabola in mano e loro lì passavano come se passassero in mezzo, che ne so, a un campo di ciclamini, capito? Ed erano situazioni in cui erano pagatissime anche le varie famose attrici sportive, cantanti che apparivano su Playboy, ma lì erano Iva Zanicchi andò erano su Playboy. Delle attrici che avevano bisogno di soldi per vari motivi, insomma, avevano bisogno di tanti soldi ed arrivavano, erano un po' in declino ed arrivavano nei vari. Però vedi che cominciava la deriva verso il cosiddetto amatoriale, cioè la gente che vuole vedere le persone normali o vestite. Ecco, esattamente dove volevo arrivare io. Che cosa adesso può il nudo, come può eccitare il nudo quando abbiamo YouPorn e qualunque cosa gratis? Quello che adesso piace e stimolerebbe, ma per altri motivi forse da quegli erotici, è un nudo di resa, un nudo miserevole, un nudo dolente, è il nudo brutto, ma non soltanto perché non sei perfetto fisicamente e vengono fuori tutti i difetti, ma perché tu stesso non ti presenti in un modo orgoglioso, ma ti presenti in un modo dimesso e infelice. In questo caso, c'è anche il canale con le vecchie di 70 anni, sono voi, cioè di vecchie anche. Fermiamoci un attimo, Susanna, resta in ascolto. Sì. Allora, quale deriva dell'immaginario erotico voi immaginate per far risalire Playboy? Cosa suggerireste di mettere? Animali da cortile, persone con accoppiamenti con alberi di alto fusto? Inventatevi qualcosa, così diamo dei consigli all'editore di Playboy. Cristoforo, buongiorno. Buongiorno a lei, maestro. Prego. Io oggi sono tristissimo. Mi scendono calde lacrime, come quando sull'Espresso la pagina principale era per quel funerale terribile per la legge Merlin. Ricordo, ragazzo, non potevi andare nei casini, avevo 17 anni. E quindi giù a comprare giornaletti per compensare. Maestro, io ho sofferto tanto. Playboy per me era un vertice, era il massimo. Lo portavo a casa, lo leccavo. Dove lo nascondeva però? Non lo nascondevo perché vivevo da solo. Ah, da solo, era già grande, io pensavo da adolescente, da bambino. No, no, da ragazzo, ragazzino cattivo. Ah. Lo leccavo, maestro. Ma perché lo leccava? Su una forma di feticismo? Come? No, era bello, ma la pagina patinata. Ah, leccava la pagina, poi. Non immaginavo. Sì. Ogni tanto c'era qualche pelino che mi restava sulla lingua. Vabbè, adesso lei sta esagerando. Guardi, ha sbagliato programma, non perché io abbia pruderia, ma esiste un limite, non mi fa ridere. Lei dice c'era il pelo sulla lingua, non mi fa ridere, pensando che lei ha pensato che sta furbata, dire che leccava Playboy mi mette tanta tristezza. Andiamo avanti, Susanna Schimperna, vediamo, questo ascoltatore voleva fare il macio autoerotico, ma però gli è venuta un po' male. Invece andiamo avanti, diciamo, la deriva. È plausibile una rivista patinata che comincia a trasformare il patinato sulla gente comune? Perché ho idea che anche il cosiddetto filone amatoriale ormai abbia stancato. Sì, ha stancato, ma infatti io non penso a gente comune, io penso a persone note, guarda, gran parte... Note ma non patinate, no, ecco. No, gran parte delle grandi ragioni per cui tutte queste riviste di gossip continuano a vendere e anche proliferano, perché ce n'è una nuova ogni settimana, secondo me è in quello, perché presentano delle persone note, più o meno note, ma comunque che più o meno si conoscano, in situazioni abbastanza tristi. E però dal punto di vista proprio alla cellulite, guarda alla pancia, delle foto oggettivamente brutte, prese, rubate, così, non certo glamour. Sì, oggi sappiamo benissimo che la foto è sempre arrangiata, la foto naturale è difficile. Come esattamente sono le persone normali? Anche le dive hanno i loro problemi cutanei come tutte le persone del mondo. Però esiste un problema anche in questo. Diciamo, lo star system ha capito che questo funziona e se le fa da solo le foto. Belen si è fatta una foto di lei che aveva la febbre, ignuda sotto le coperte. Beh, quindi la prossima volta che ci avrà, che ne so, la luce valgo, ci mostrerà il suo osso sacro. Ma comunque così, se le fanno da solo. Oggi esiste la possibilità di farsi un selfie. Quindi come si può investire editorialmente in un prodotto che in realtà fa quello che il personaggio può fare da solo a casa sua? Questa è la domanda, a tra un istante. Melog. Cronache meridiane. Nel fiore dell'adolescenza, un sommo tentatore alla lussuria fu il catalogo della Postal Market. Il catalogo Postal Market fu l'organo immarcescibile della vendita per corrispondenza all'americana che seguì ogni famiglia italiana dalla fine degli anni 50 alla fine degli anni 90. Qui si descriveva ogni abito o capo di biancheria come realizzato in caldo e morbido poliestere al 100%. Si sfogliava per mesi interi, guardando, valutando, facendo confronti, ma poche volte si ordinava qualcosa. La diffidenza delle generazioni uscite dalla guerra considerava un insulto alla miseria acquistare senza poter toccare la merce. La sezione più Roberto, buongiorno. Buongiorno. Gli ho dedicato questo omaggio a quello che era il playboy dei poveri, o il playboy che entrava in famiglia perché le madri lo comperavano e non sapevano, o sapevano e ignoravano, l'uso improprio che ne facessero i figli, forse anche i mariti. Figli adolescenti, molto molto adolescenti. Racconti sì, lei al mondo che non sa quella che è stata la nostra esperienza. Noi adolescenti, io ho condiviso questa cosa anche con tanti miei coetanei. Ma tutta una generazione si è abbassata le diottrie col catalogo del Postal Market. Questo... Esatto, e vorrei anche dire che ha chiuso da poco anche quello. Sì, ufficialmente, quindi, un po' di anni che non esce. Diciamo, ha avuto anche un colpo di gloria provato negli anni 90, aveva cambiato editore, c'era un parlamentare che l'aveva preso, l'ha fatto suo e fece un numero eccezionale in cui vedono vibratori, preservativi, ma la famiglia italiana non era pronta ancora a quello. In realtà Postal Market aveva, lo dico, era il catalogo della vendita in corrispondenza. Lo sfogliavamo, cercavamo la parte della biancheria intima, c'erano delle signore con dei busti che oggi non metterebbero nemmeno a 90 anni e noi ragazzini c'erano solo quello. Esatto, ma è una cosa che però stimolava, come tutte le cose che coprono, stimolavano molto la fantasia. È come ciabuttafuoco, era il vero erotismo che si respirava in famiglia. Ha assolutamente ragione, è così. E poi c'erano anche però le pubblicità, quelle tipo Scuola Radio Elettra, quelle cose lì che vendevano i cannocchiali portatili che diventavano delle penne per vedere la vicina di casa. Ah sì, beh, gli occhiali a raggi X è un classico. Quelle cose, ma sa, non funzionavano, non so, tutti l'abbiamo comperato, era una bufala, non si vede nulla. Sull'intrepido, occhiali a raggi X, vabbè, ognuno vede gli strumenti e i marchingegni che pensava il maschio italiano per riuscire a raggiungere quello che era soltanto una sorta di simulacro inerte del proprio della propria compressione gonadica. Matteo, buongiorno. Ah, buongiorno. Ah, riguardo gli occhiali raggi X, mi ricordo che insomma era più l'attesa, intanto che arrivavano gli occhiali si guardava le donne, che io guardavo le donne che mi piacevano e pensavo quando sarebbero arrivati gli occhiali. Adesso ti cucino io, aspetta, ma arrivano gli occhiali raggi X, poi ragioniamo. No, io volevo dare un consiglio, dicevate prima dare un consiglio a quelli di Playboy, secondo me dare la parola un po' a queste immagini erotiche, cioè farle parlare col fumetto. Cioè, io mi ricordo che nei vecchi giornalini ce n'erano di quelli che facevano tipo teleromanzo, c'era la sequenza e c'era il fumetto, insomma era molto eccitante, diciamo, ecco, per me, ecco, più che insomma una pornografia, ecco, secondo me la parola aggiunta alle foto, ecco. Mi ricorda Stefano Morigi, che è un filosofo della scienza che sta seguendoci come consulente e conoscitore della materia, un libercolo di Diderot, I gioielli indiscreti, in cui improvvisamente le passere delle signore cominciano a parlare e ne dicono di tutte. Lei praticamente suggerisce un'operazione del genere, mettere un fumetto, perché da dove uscirebbe il fumetto? Non dalla bocca, penso. Anche dalla bocca, no, dalla bocca. Vabbè, questa... Susanna Schimperna, cosa ne pensi di questa proposta? Ma c'erano i fumetti, c'erano non i fumetti, a parte quelli che poi sono diventati proprio pornografici, imitazione di Diaboliche, Sataniche, Magnus, però c'erano quelli in versione decisamente porno, ma c'erano proprio i fotoromanzi erotici. I fotoromanzi erotici, non pornografici. Vediamo chi non vedevi risponde un nudo integrale, però queste attrici erano comunque con la GPR, con il reggiseno piccolino e con queste situazioni, e quelli hanno arricchito gli editori negli anni 70 da pazzi, perché si potevano vendere. Erano come fotoromanzi, praticamente. Erano proprio fotoromanzi. Un pochino scollacciati. Sì, fotoromanzi scollacciati. E li potevi un po' comprare, Sadomaso qualcuno anche, sì. Li potevi comprare di giorno, perché poi quando invece dovevi comprare il giornale decisamente porno, quello gli edicolanti lo esponevano la notte. Ah, i giornali zozzi si vendono solo, sì, la notte? Io solo non mi ricordavo questo particolare. E venivano esposti la notte. Io che ho delle edicole notturne qui dove abito... Cambiavano proprio, levavano Famiglia Cristiana, sì, Topolino... Levavano tutto e la notte, dall'una in poi... Caballero... C'erano i vari Man, Superman, Caballero, insomma le varie cose pornografiche che si vendevano moltissimo, poi arrivarono le cassette VHS, sempre la notte... Sempre esposto. Sai che la vera fortuna del VHS sul Betamax fu questo, che il VHS per primo, quando in Italia ancora non c'era uno standard fisso, nel mondo non c'era uno standard fisso, il VHS fu il primo a mettere i film porno, quindi tutti si comperarono il videoregistratore col VHS, e il Betamax, che era molto, che era superiore senz'altro, andò in disuso. Perché? Perché l'uso era quello, la tecnologia passa attraverso la passione. Nicola, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Milano. Sono anch'io, diciamo, di quella generazione, anch'io ho vissuto certi momenti, diciamo... Cioè la generazione si è rovinata con le sue stesse mani, vorrebbe dire. Sì, con il postal market, però volevo aggiungere che noi, diciamo, ci davamo gli occhi anche dal barbiere. Il barbiere aveva un luogo dove metteva certi, certo, giornali, e noi sapevamo dove andare a prenderli. Nascosti, l'ho detto, l'ho descritto prima, dove stanno nascosti i pettini, la fila rasoi, c'era il mucchietto e giornali zozzi. Mentre lui ripuliva il rasoio sulle schedine, si ricorda le schedine? Certo, le schedine del Totocalcio servivano per pulire la sugna, sì, del rasoio. Sì, sì. Si vediamo che poi si ricorda, sì, che giornale era dal barbiere, era un giornale ben preciso. Ah, che... era il Tromba, era... No, prima ancora ABC, Susanna Schimperna se lo ricorderà, era un giornale che in realtà era un giornale che aveva anche un suo valore... Sì, anche di denuncia, battaglie civili, come no? Beh, ma anche Playman in Italia fu questo, eh? Sì, anche qui, è vero, c'era qualche articolo ma un po' più patinato, no? ABC era proprio una zozzata, però se uno guardava al di là di quello era bianco e nero anche ABC, quindi c'era solo la scritta rossa ABC. Tu, Susanna, lo faresti il direttore di Playboy? Se tu fossi direttore, cosa faresti oggi in questa svolta epocale? Io andrei a cercare tutte le persone famose che avessero voglia di dimostrarsi, come dicevo io prima, dimostrarsi nel loro peggio, non orgogliosamente ma dolentemente, piene di difetti, e quello metterei, ma per forza. Faresti una rubrica, vinci chi ha la smagliatura più profonda, chi ha la cellulite, no, più frastagliata. A parte poi che forse prevarrebbe anche il mio lato libertario, Miss Varice 2015, di rabbia contro l'ipocrisia eccetera, quindi parlerei di tantissimi temi che sono importanti. Scusa, una delle cose su cui io sono fissata è che sembra che il sesso sia totalmente liberato, disinibito. Allora, tutti quelli, e sono tanti, e anche noi saremo così, che sono vecchi, che sono disabili, che sono pazzi, che hanno per qualche motivo, qualche differenza, e forse più d'una, dai cosiddetti normali, tra 10.000 virgolette, che fanno? Sembra che non abbiano diritto ad alcuna sessualità. Io parlerei tantissimo di questo. Questo è un bell'argomento. Ti do qualche elemento in più. Dagli SMS che stanno arrivando, vedo che l'immaginario si scatena rispetto alla tua proposta di mettere persone note, sì, ma nella loro natura non artefatta. Non so perché, mi fa anche pensare, un po' mi dà anche fastidio. Tutti elencano le politiche, le ministre, vorrei vedere questa, quell'altra. Sì, però... c'è un gusto di gogna. Sì, perché se fanno le politiche, sì, per forza facci vedere anche le cosce. C'è il gusto, cioè... guarda, questo è il gusto della gogna, perché se ci pensi anche la gogna era molto pornografica. Sì, non certo, so se era erotica, ma pornografica sì, la stessa posizione. Deve mortificare una persona. La mortificazione, quando io dico dolente... Il gognato era questo. Pecorina, è inutile, sì, negarlo. Era l'essere così, fisicamente in una situazione di debolezza, purtroppo, adesso ci abbiamo scherzato, ma purtroppo è molto questo oggi, vedere qualcuno che ti appariva felice e poi addirittura di potere, perché no, le ministre, le cose le vedi come persone, guarda, che hanno tutte potere... le vendette venivano fatte sulle donne nei cambiamenti, soprattutto le guerre civili, le ausiliarie ex fasciste, ma come anche le donne che prendevano gli altri, le spogliavano nude e le mandavano per strada nude, così, oltre a pargli la e testa. Questo è sempre stato: la donna che faceva un figlio fuori dal matrimonio veniva rasata e buttata nuda in mezzo alla folla, portata con le catene bene in quella situazione, perché il corpo nudo ha sempre avuto anche questa valenza di essere un corpo mortificato. Tu pensa con quelli che hanno i processi alla stregoneria per trovare il segno del diavolo, certo. Quale introspezioni e esplorazioni facciano i buoni padri inquisitori. Fermiamoci un attimo, tra poco. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Melog, cronache meridiane. Che si tratti di voglia di novità, del tentativo di risollevarsi dalla crisi o più semplicemente dell'adeguamento alle più moderne tecnologie, poco importerà ai più affezionati cultori di Playboy. La cosa importante per tutti quegli uomini che da 57 anni sfogliano le pagine della celeberrima rivista è che adesso potranno ammirare in modo ancora più realistico le curve conturbanti delle conigliette di Hugh Hefner. Playboy ha deciso infatti di inforcare gli occhiali, quelli stereoscopici capaci di decifrare le immagini che compongono le pagine interne, compresa la celeberrima paginona centrale, e regalare così una visione in 3D. E se Marilyn Monroe è passata alla storia per essere stata la prima 153 e la svedese Lena Sjöblom per essere stata la coniglietta del numero più venduto della rivista, quello datato novembre 1972, la 25enne americana Opes Vorazic potrà raccontare di essere stata la prima bellezza a venire ammirata in 3D. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Nicoletti. Niente, io volevo portare la mia esperienza personale. Ho 45 anni, ma mi ricordo di aver scoperto le prime gioie del sesso, diciamo visivamente, a casa di un mio amico che aveva la mia stessa età, ma suo papà non si faceva mai mancare la collezione completa di Penthouse e Playboy. Ah, Penthouse, quindi... sì. C'era anche Penthouse. Dopo il destino beffardo ha voluto che io comunque andassi a lavorare a distanza di anni in una videoteca e quindi ho visto comunque cambiare anche le abitudini dei vecchietti. Racconti un po', ci interessa questa sorta di deriva del gusto. Sì, perché secondo me alla fine si sono adeguati anche ai tempi e come diceva lei, dei giornali patinati sotto magari qualche asciugamano, secondo me quel discorso lì magari ce ne sono veramente pochi, perché i vecchietti adesso sono ben all'avanguardia con i loro ben lettori DVD o con le tessere che ci sono e fanno uso di... Vabbè, ormai uno smartphone ce l'hanno tutti, quindi c'hanno la rete. Esatto, sì, ma proprio i vecchietti in particolare che secondo me usano molto il prodotto in forma di DVD. Quindi io secondo me la pornografia a rete com'è adesso in questo momento esatto, non ai primordi quando era un'avventura cercare pornografia a rete, succedeva di tutto, bisognava pagare, adesso com'è, basta fare un indirizzo, c'è di tutto, ha avuto un effetto di istigazione alla contenzione, ma che nessun padre spirituale, nessuna azione cattolica, nessun salesiano avrebbe mai potuto, è un effetto depotenziatore dell'erotismo così forte come YouPorn, penso non sia mai esistito, chiunque al massimo, cioè tutto, in tutte le sue descrizioni e possibilità, in un secondo, in un istante, quindi... La decima volta che un ragazzetto va su YouPorn, ma anche un adulto, anche un signore anziano, alla fine è come guardarsi Domenica Inn, uno lo fa per abbioccarsi dopo aver mangiato il cappone la domenica a pranzo. Maurizio. Pronto Nicoletti? Sì, ascolto. Sì, buongiorno. No, io a proposito di riviste d'antan che in qualche modo facevano... filtrare un senso anche di pruderie, voglio ricordare 2+, che non so se è stata citata. Ah, con l'inserto sigillato, 2+ i nostri figli, inserto sigillato, vero? Perché in realtà io leggevo che mia sorella lo leggeva, io ero un bambino, però era una rivista di liberazione sessuale. Qui sì, poi bisognava essere veramente... maliziosi. 2+ era un giornale che uscì con intenti didattici, che era un inserto sigillato, cioè dentro c'erano 5-6, una bustina chiusa dove c'era la cosa del sesso, ma c'erano i disegnini che faceva vedere come era fatta la passera al pisello nella sezione sagittale, però, cioè, sì. Ce ne voleva, diciamo, ce ne voleva. Vabbè, io ero un bambino, ma per esempio mi ricordo, non so, mi è rimasto impresso, perché questa indagine sulla prostituzione, no? Allora c'era questa intervista alle prostitute eccetera e questa tipa, questa prostituta che diceva questa frase che io tuttora ricordo, che me la gioco spesso, che diceva: guarda, non è difficile fare la puttana, è difficile stare con le puttane, che vale un po' per tutti i mestieri, no? Spesso almeno io la gioco su quando si parla di, della difficoltà di fare alcuni lavori, che dico, beh, non è difficile fare vale anche lavori. Per i ragionieri, i commercialisti, i pulitori di caldaie, cioè ognuno preferisce starsene non con i colleghi ma starsene con persone diverse, questo è normale. Susanna Schimperna, vedi, sì. Però diciamo la confusione che adombra i ricordi del passato, soprattutto ricordi che in sé sono ricacciati nel più profondo della nostra psiche, delle volte fa fare un po' di errori. Due più era un giornale parascientifico, non aveva... Ma guarda che lui ha ragione perché mentre parlava io mi ero dimenticata completamente l'inserto sigillato, ti ricordi? Che due, io non lo compravo, ma due miei compagni di classe di liceo, quindi parliamo di quando avevamo 17 anni così, compravano due più proprio per questo motivo, per leggere l'inserto, come poi dopo si è letto Playboy, come dopo si sono viste le cose pornografiche. Sì, ma era roba medica, era roba... Lo so, però sai, anche roba medica, il disegnino, e poi raccontavano anche le varie posizioni. Ma perché sessuali. Te da piccolo non andavi a cercare le parolacce sull'enciclopedia? Sì. Chi è che non l'ha fatto? Sì. Pensa come eravamo messi noi, più o meno, tu sei più giovane di me, ma più o meno ci assomigliamo e come generazione. Sì, e sai che c'è un'altra cosa, bruttissima, però è inutile far finta che non ci sia questo lato dell'animo umano. Nei musei delle torture si va anche per vedere questo. E suppongo che, per riallacciarci al discorso, c'è la pera rettale, che non è che sia proprio una cosa che ma non vedi inquieta. Queste figure. No, lo descrivo, è un affare di ferro che si infila con dei chiodi, girano una specie di chiavistello, si allarga e sfonda tutto. Sì, ma vedi delle scene. Intonti fai lo scandalizzato. Fai missione scientifica, lo so. Però tutto è questo giovane. Faceva parte del modo di eccitarsi, perché vedevi delle donne, soprattutto riguardo alle donne. Penso che il Tribunale Inquisizione non ci fosse un dungeon più attrezzato che il luogo in cui facevano gli interrogatori dell'Inquisizione. Ma erano delle cose di sadismo puro e di sadismo sessuale, perché era soprattutto questo accanimento sui genitali e anche sui caratteri secondari, sul seno, così, sulle donne. Sì, c'era non la era tenaglia straziatrice. Ma cose terrificanti. Sempre sulle donne, poi. Sempre. Guarda, ripensando, quando mi hai chiesto come faresti un giornale come Playboy, ma forse non lo farei, perché stiamo tutti troppo guardando. Troppa roba, siamo, oggi c'è talmente guardoni. Tanto. Io vorrei una società in cui sesso fosse fantasticato, immaginato e praticato, ma ecco, non soprattutto guardato. Praticato, perché se ne parla tanto. Certo. Io, nella mia trasmissione che faccio lungo i treni, che incontro soprattutto donne, la prima cosa mi raccontano qui, si dice, ma chiacchierano gli uomini, ma trova un uomo che ancora pratichi, sembra una cosa difficilissima. Si chiacchiera e si guarda e si chiacchiera. E poi crediamo sempre, io credo veramente, che pensare che queste cose che vediamo siano poi realistiche ti può anche portare come uomo all'impotenza e come donna a una forma comunque di frigidità. Sì, ti passa la voglia. Renzo, buongiorno, chiudiamo con lei. Sì, buongiorno. Un suo amico, naturalmente, suo cugino. Aveva un giornalino in cui ritagliava le fotografie. Sì, il suo amico, non dubbio. Ritagliava le fotografie trovate su Vestro, ancora delle signorine che avevano che provavano le varie mutandine. Sì, Vestro era, diciamo, il concorrente di Postal Market, era uguale. Esatto. Venta per corrispondenza di mutande. Se le ritagliava e poi... E poi le metteva, aveva questo giornalino in bagno che sfogliava simpaticamente quando si... Lo teneva inquattato, nascosto in bagno, era sempre lì pronto. Esatto, quello era il wifi degli anni 70, era quello, aspettava un quadernino nascosto dietro il termosifone e lì era, ci aspettava e noi andavamo trepidanti come un appuntamento d'amore. Grazie Susanna Schimperna, alla prossima!